Se io fossi una rosa e vivessi un giorno solo, non sprecherei il mio tempo ad interpretare un ruolo. Se vivessi un giorno solo, crederei solo ai miraggi e al sole ruberei tutto il giallo dei suoi raggi. Se io fossi una rosa e vivessi un giorno solo, capirei molte più cose perché dovrei capirle al volo. Fiore di mare, così poco dovrei campare, che per morire basterebbe solo aspettare. Fiore svogliato, lasciatemi dormire in questo prato. Sembrerebbe strano abbandonarmi al fato tra le mani di un indiano. Se io fossi una rosa, fiore regalato, graffierei la vanità del suo viso mascherato. Fiore di carne, fior fior di tentazione, vengo a cercarti tra le note di una canzone. Fiore stonato, meraviglioso capriccio del creato.